GR Europa. Da Napoli a Bruxelles in cerca di fondi per la ricostruzione, un mese dall'incendio, un incontro organizzato a Bruxelles cercherà di riportare l'attenzione delle istituzioni sugli impegni presi per ricostruire la città della scienza di Napoli e di far superare anche le divisioni italiane. Tra i promotori, l'europarlamentare PPE Erminia Mazzoni, al microfono di Laura Bettini. Il commissario Anni, insieme al vicepresidente della Commissione europea Tajani, nei giorni immediatamente successivi all'evento hanno subito dimostrato una di pronta disponibilità della Commissione UE a dare un conforto e quindi a intervenire finanziariamente per sostenere la ricostruzione. Purtroppo ci sono state, come accade spesso in Italia, delle divisioni tra i diversi livelli istituzionali. Ci ritroviamo che ancora una volta forse rischiamo di perdere dei fondi europei o comunque di ritardare un'importante ripresa di attività. Quindi il nostro incontro oggi per mettere intorno a uno stesso tavolo tutti i soggetti istituzionali che hanno voce in capitolo per un confronto immediato con la rappresentanza europea, ad evitare che, come ha detto anche il commissario Hahn venendo in Italia, la Commissione trovi come giustificazione per non intervenire le divisioni italiche e nazionali. La Serbia ha ufficialmente respinto la proposta di accordo sul Kosovo avanzata dall'Unione Europea, ma si è detta pronta al tempo stesso a proseguire il negoziato. Mi rammarico per la decisione di Belgrado, ha detto il capo della diplomazia europea Catherine Ashton, invitando Belgrado invece a fare un ultimo sforzo per raggiungere un accordo. La scomparsa di Margaret Thatcher ha suscitato molte reazioni in Europa, c'è chi la ricorda come un'ammirazione, c'è chi ricorda invece il danno prodotto al sistema dell'Europa nel suo insieme. Urte Mödlich, collega della radio tedesca AMS, ha intervistato il parlamentare europeo del Lussemburgo, Robert Goebbels, che dice la Thatcher ha prodotto un grave danno all'Unione. Margaret Thatcher è stata il primo ministro che ha introdotto la politica del voglio i miei soldi indietro, che ancora oggi caratterizza la posizione britannica, e molti altri hanno cercato a vario titolo di perseguire lo stesso obiettivo. Ovviamente, prosegue Goebbels, per l'Unione si tratta di un danno grave che si dimostra in tutta la sua complessità proprio in questi tempi, quando avremo bisogno di più strumenti economici per finanziare la ripresa, e invece ci vediamo costretti a fare i conti proprio adesso con una riduzione del budget europeo. E infine il vicepresidente della Commissione, Antonio Tajani, ha visitato la più grande fiera industriale del mondo ad Hannover. È stata l'occasione per incontrare il cancelliere tedesco Merkel e il presidente russo Putin. I tre, si legge in una nota, hanno convenuto sull'importanza di rafforzare la cooperazione industriale a livello europeo e internazionale. Tajani ha poi inaugurato lo European Space Expo, sottolineando il ruolo cruciale delle tecnologie legate allo spazio e dello sviluppo dei progetti UE, Galileo e Copernicus, per rafforzare la competitività del continente. Bene, con questo abbiamo concluso. GR Europa torna domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.